Radio 24. Libera la voglia di fare. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a coorte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della Belva. Di Carlo Alberto Carnevale Maffè, Oscar Giannino, Mario Seminerio e Renato Cifarelli. Buongiorno, buongiorno, buongiorno cari ascoltatori di Radio 24, 10, 7 primi e 30 secondi qui in diretta dallo studio di Milano. Oggi in studio solo per il momento Oscar Giannino, vi dà un saluto e vi ringrazio per l'ascolto in diretta in podcast dei Conti da Belva, ma abbiamo collegato comunque, niente paura, con noi sin dall'inizio almeno Mario Seminerio. Buongiorno Mario. Eccoci, ciao, buongiorno a tutti. Ecco, speriamo di migliorare la qualità del collegamento perché qui abbiamo un problema su Skype che però stiamo provando a risolvere. Nel frattempo io confido perché in regia Carmelo è di solito un genio su queste cose, però i mezzi sono quello che sono. Allora, ci dovrà raggiungere per telefono anche lui, Carlo Alberto, che sta in una certa parte d'Europa, e più tardi con noi Mario Seminerio. Ma intanto, come sempre, dico ai nostri ascoltatori i temi della trasmissione per decidere, consentire loro di verificare se in questo fine settimana carnevalizio, se non sono sulle piste di sci come molti, ma tanti altri no, però vogliono intervenire, e per intervenire il numero è 800 24 00 24. Invece sapete per gli sms qual è il numero, 349 238 6666. Allora, di che cosa ci occupiamo? Iniziamo la trasmissione come sempre tra poco con il punto di Mario, e vedrete che il punto è relativo a un tema che non c'è nell'agenda nazionale ma sul quale ieri sono usciti parecchi dati interessanti. È uscito un report molto corposo dell'IST dedicato ai problemi della competitività italiana nei diversi settori, e quindi parleremo non solo di quello ma anche di quello. Parleremo anche di questa proposta per esempio che oggi lancia il Messaggero. Sul Messaggero Osvaldo De Paolini e il professor Fortis cofirmano un articolo nel quale chiede meno dati, ci sono troppi dati, dicono loro, troppe rilievi successive, troppe correzioni sistematiche ex post, è diventato un caos, ognuno può interpretarli come vuole. Tenete conto che di solito si chiedevano appunto i dati senza interpretazioni per evitare il più possibile pasticci, invece loro chiedono l'opposto. È fondata questa richiesta? Ci sono davvero troppi dati, oppure non piace quello che dicono i dati? Però parleremo di competitività e ancora una volta dell'aggiornamento. Ora abbiamo il quadro completo del 2016 e della parabola del governo, e quindi da questo inizio di trasmissione passiamo poi a porci un problema esplicito. Un problema esplicito che si incardina su due pilastri. Come avete visto l'altro ieri, intervenendo alla cerimonia al Quirinale della consegna dei premi Leonardo, il ministro per lo sviluppo economico Carlo Calenda ha pronunciato un discorso che sui giornali è finito per l'interpretazione retroscenistica più o meno lontana da Renzi, eccetera, ma che però pone un punto di fondo. Calenda ha detto due cose in buona sostanza, e cioè, da una parte non spetta al governo l'ottimismo programmatico, disseminare ottimismo a prescindere dai dati, come non dovrebbe spettare all'opposizione fare pessimismo di maniera. Bisogna essere realisti, guardare i dati ci dicono che bisogna fare tante cose, ma noi non facciamo gli spacciatori di ottimismo. Prima affermazione. La seconda affermazione è invece, proprio perché in nome della svolta realista bisogna cambiare approccio, la conseguenza è no alle invenzioni, e strategicamente Calenda ha detto no alle invenzioni di bonus, no alle invenzioni di redditi. Quindi ci ha messo insieme sia l'asse portante prioritario di treni di governo alle sue nostre spalle che la grande gara aperta tra redditi di cittadinanza, tra 5 Stelle che ne sono depositari del marchio, per così dire, fin dall'inizio, ma poi anche quello che si è detto fino a questo momento della nuova batteria di proposte che viene dal PD, e lo stesso Berlusconi ha detto che lui stesso darà a Forza Italia un reddito di cittadinanza come punto per la propaganda elettorale. Allora, questa svolta del realismo di Calenda, che trova oggi fondamento anche per chi per esempio avesse letto il Corriere della Sera nella intenzione attribuita a Gentiloni, l'articolo lo firma Federico Fubini in prima pagina, una svolta che è fatta sul tagliare la spesa e il cuneo fiscale, però tagliare la spesa, non più puntare sul deficit e così via. Ci credete a questa svolta realista? È necessaria secondo voi? Oppure bisogna pensare, vi hanno convinto, ma no, bisogna buttare per aria l'euro, andare in deficit, il debito, perché se pensiamo a fare i realisti l'Italia tanto non ne ha di terreno da recuperare? Chiamateci su questo primo interrogativo, perché poi noi con due ospiti, Dario Stevanato e Alessandro Barbera della Stampa, ci porremo la questione, vedremo come la pensano loro, realismo sì, realismo no, o il realismo necessario a costo di far saltare tutto, per così dire. E questa è così, fino alle 11 ci teniamo compagnia. Dopodiché nella seconda parte della trasmissione poniamo un problema che riguarda noi tutti come automobilisti, voi tutti come automobilisti. Per l'ennesima volta, va avanti da tanti anni questa storia, ci era stato promesso a noi automobilisti uno sgravio di tipo amministrativo e anche di costo sugli oltre 300 euro che paghiamo per una pratica automobilistica, perché ci era stato detto finalmente si andrà all'unificazione del libretto di circolazione, del certificato di proprietà dell'auto. Come sapete, questa è la vicenda annosa relativa al fatto che ci sono due registri, uno tenuto dalla motorizzazione e l'altro dall'ACI. E ancora una volta all'ultimo secondo sul decreto delegato Madia, fino alla mattina prima, anzi alla mattina stessa, c'era l'annuncio con tanto di identificazione del primo piccolo passo, 32-39 euro di bollo in meno da pagare, se non che la sera niente da fare. Come mai? Perché? Ma chi è che si oppone? Qual è l'insormontabile problema in questo apparente ed evidente sovrapposizione di competenze e quindi lotta di posizione a difesa? Ecco, noi scegliamo per parlare una parte terza, nel senso che ci siamo rivolti a chi rappresenta le agenzie che fanno poi più delle pratiche, questo è il punto. Quindi sentiremo loro, ma chiamateci per dire la vostra, l'800240024, perché questa storia va avanti da troppi anni per lasciarla solo nelle brevi di cronaca. C'è dietro una grande storia di potere, come è evidente, forse ogni tanto bisognerà che ce ne occupiamo. Allora, intanto ci ha raggiunto anche Carlo Alberto Carnevale Maffè, ci sei? Certo ragazzi, ci sono. Ma dove sei? Vabbè, non vuoi dire, va bene. Senti, cosa aggiungi da parte tua di settimana che ti ha colpito? Senti, mi ha colpito il fatto che l'applicazione dei miei studenti, che voi vecchi non usate perché siete un po' incapaci, certo, Snapchat, vale oltre 30 miliardi, il che vuol dire A, che non avete capito niente, B, che il nuovo modo di fare televisione, perché qui stiamo parlando di oltre 10-15 miliardi di video visti al giorno, il nuovo modo di fare televisione purtroppo passa, dico purtroppo perché mi dispiace, anch'io sono un po' retro, purtroppo passa dal video dei nostri telefoni mobili. La valutazione è stratosferica, francamente faccio fatica anch'io a capire le basi. Ah, ma ecco, no, vogliamo dirlo perché non fare troppo l'entusiasta, perché quella valutazione, insomma, rispetto a come si calcolano i multipli, eccetera, eccetera, non ha senso. No, perché siete vecchi, ve l'ho detto. Io ricordo quotarono. Oh, Google, ero presente, ero in diretta su CNBC, anche quando portarono Facebook, tutti dicevano, ma cos'è un giocattolino per brufolosi adolescenti? No, io non sto dicendo Snapchat quello. È una cosa un po' particolare, è un modello di viralità specifico. Certo, non guardate i multipli, bisogna guardare... Ecco, no, io voglio solo dire che il nostro compito come Radio 24, no, fatti interrompere, fatti interrompere, fatti interrompere, un conto è... giustamente battersi perché l'innovazione travolge le vecchie forme, e questo è un conto. Altro conto è dimenticarsi di dire che allo stato attuale delle cifre che ci sono note dell'azienda, ecco, è tutto qua. Vabbè, però se chi fa finanza, chi fa impresa non può guardare ai numeri di bilancio dell'anno scorso, deve guardare a quelli attesi ed è una scommessa, ovviamente una scommessa rischiosa, però una scommessa con numeri da brivido, ripeto, oltre 10 miliardi di video giornalieri. Sono una cifra che sconvolge vista la giovane età dell'iniziativa. Questi sono i fenomeni del giorno di oggi e l'idea che l'Italia ancora ieri sia finita 25esima nell'indice di sviluppo digitale in Europa su 28, a buon passo con la Bulgaria e appena dietro la Grecia, se non ricordo male. Ecco, questo ce la dice lunga sul fatto che non siete in grado di capire, cari compari, non cosa siete... sta succedendo dall'altra parte del Pacifico. Non siete chi? Ma lo dico a te, Oscar, che sei un cantore delle vecchie tecnologie. Il cantore, sì. C'è ancora lì che dice scriveteci via SMS, ma... Da me gli sms erano vietati alcuni anni fa in quanto illegali secondo la Convenzione di Ginevra. Scusate. Professore Carlo Alberto, io devo attenermi al set avanzatissimo di dotazioni tecnologiche che mi mette a disposizione l'editore, che tra l'altro si dimentica di pagarmi da un po' di tempo. Però detto tutto questo, queste... Ah, mamma mia, com'è difficile, cari ascoltatori. Allora, con Mario ci risentiamo subito perché tra un minuto iniziamo la rubrica sua. Fratelli d'Italia, l'Italia le messe. Conti della Belva. Ricordati che devi morire! Sì, no, mo me lo segni proprio, non mi preoccupare. Eccoci qua con la nostra rubrica di aggiornamento, il punto eccetera. Però Mario, prima di andare al punto di cui vogliamo parlare, io ti voglio chiedere la tua opinione. Io ho richiamato prima questo appello che mi ha lanciato dal Messaggero Fortis De Paolini all'ISTAT, al Sistema Statistico Nazionale. Troppi dati, troppe release. Troppe correzioni sulle correzioni, però le correzioni quando ci sono retrospettive possono essere anche ampie, ma non ci trovo niente di male. Io poi devo dire, ammettere la verità con grandissimo rispetto per Fortis, Osvaldo è un mio amico, quando ho letto la riclassificazione della crescita tedesca per la quale praticamente è come la nostra, perché al netto della spesa pubblica, ma come, gli abbiamo rotto le scatole per anni ai tedeschi perché dovevano spendere eccetera, adesso diciamo che la loro crescita è al netto della spesa pubblica. Però sul nocciolo, ecco, senza fermarci a questo, tu come la pensi? Allora, se questo fosse un paese con un minimo di alfabetizzazione numerica e soprattutto statistica ed economica, probabilmente non ci sarebbe bisogno di questa pletora di dati che vengono tirati per la giacchetta a destra e a manca. Però a me viene da sorridere di fronte a suggerimenti di questo tipo, perché intanto Fortis contribuisce all'inquinamento statistico con le sue riclassificazioni assurde, dove espunge la spesa pubblica dal totale del PIL per evidenziare la domanda interna al netto di questo e di quell'altro, manco fosse un carciofo. Diciamo che in economia esiste una cosa chiamata interdipendenza e Fortis lo sa benissimo. A parte ciò, cosa facciamo con le notizie, con i dati statistici che arrivano da fuori? Cosa facciamo con le rilevazioni mensili di Markit, con gli indici dei direttori acquisti, con le previsioni dell'OCSE, del Fondo Monetario Internazionale, della Banca Centrale Europea, delle organizzazioni internazionali? Cosa facciamo? Mettiamo l'embargo? Vietiamo ai giornali e agli organi di stampa di pubblicarle, che già sono tanto bravi che pubblicano le cose ad mentulam canis e le reinterpretano come preferiscono? Cioè, come al solito, da un'idea, come dire, astrattamente percorribile, si finisce a fare teatrino e macchiette. E vabbè, diciamo, quindi mi pare che non mi stupisce. Sei stato chiaro e netto nel dire che non ti hanno convinto, caro Alberto? Sì, non mi hanno convinto, soprattutto perché invece c'è qualche segnale molto interessante, per esempio sulla manifattura che sta reggendo, sta crescendo, è agganciata, come abbiamo visto, ai segnali generali, e quindi dovrebbe fare una disaggregazione non alla Fortis, fammi dire, ma sulla base della produttività dei settori, perché il vero problema dell'Italia è questo, l'Italia ed è esattamente questo, penso, cioè, con Mario su questo punto vediamo di approfondire, perché ieri è uscito effettivamente un report molto interessante, Mario. Sì, è il report annuale elaborato da Istat, il rapporto sulla competitività dei settori produttivi. Emergono alcuni punti, ma più nello specifico emerge che da un paio di anni a questa parte, per una serie di motivazioni che tra poco valuteremo e discuteremo, la capacità di penetrazione delle esportazioni italiane all'estero ha ripreso. È risalita. Allora, a beneficio di quanti dicono che io sono uno sfascista, vedo solo i bicchieri più che mezzi vuoti, assolutamente bucati e quant'altro, diciamo che questi dati sono confortanti. Sì. Ad esempio, la quota delle esportazioni italiane sul totale mondiale, che nel 2013 era il 2,7%, sarebbe risalita nei primi tre trimestri del 2016 e prossima al 3%. Allora, questo è un dato positivo. I progressi sono relativi a tutte le categorie merceologiche. E soprattutto in questo, senza mentulare, cioè senza barare, è una tendenza effettivamente più significativamente positiva di quanto non avvenga invece per Francia e Germania. Esatto, questo sì, questo assolutamente. anche come generazione di valore aggiunto, negli ultimi trimestri l'Italia sta facendo meglio di questi paesi. Allora, siccome le notizie positive, quando ci sono, vanno date, le diamo. Diciamo che abbiamo, ad esempio, per quanto riguarda la produzione industriale, un settore farmaceutico che sta andando estremamente bene, e anche per quanto riguarda l'export. Ribadiamo quello che vi stiamo dicendo da 2 anni a questa parte, che il retooling di Fiat Chrysler in Italia, con il potenziamento degli impianti e l'orientamento all'export, sta sorreggendo la produzione industriale e lo stesso export. Meglio così che non averlo. Diciamo tutte queste cose, però diciamo anche che in questo rapporto Istat sulla competitività ci sono elementi di criticità latente e manifesta. Ad esempio, noi siamo sicuramente bravi, e non lo stiamo scoprendo adesso, nell'export manifatturiero, dove abbiamo una tradizione di eccellenza che persiste malgrado condizioni fortemente avverse, sia macroeconomiche, per tutto quello che è successo in Eurozona negli ultimi anni, ma anche malgrado la presenza di avere dietro queste aziende, hanno dietro un sistema paese che è semplicemente ridicolo, ad esempio nel funzionamento della pubblica amministrazione, nel sistema educativo, nell'istruzione, nel raccordo tra scuola e impresa, in tutti quegli elementi che concorrono alla produttività totale dei fattori, che in questo paese è l'elemento che ci mette in condizione di nuotare con dei pesi da alcuni chili agli arti. Quindi onore al merito, però c'è un però. L'Italia è ancora ai margini dell'export di servizi ad alto contenuto di conoscenza, che sono gli ambiti, e Carlo Alberto lo sa molto meglio di me perché è la sua attività principale, diciamo professionale, quant'altro, dove il mondo si sta orientando. Cioè l'esportazione di questa economia della conoscenza, non solo di manufatti che però incorporano tecnologia. Quindi è qui che serve il sistema paese, un sistema paese che orienti e favorisca lo sviluppo di start-up innovative e che non sia un costante intralcio. E soprattutto serve aumentare l'internazionalizzazione. Cioè l'Italia, indica il rapporto, resta un paese complessivamente molto poco internazionalizzato rispetto ai paesi con i quali ci confrontiamo, quindi Francia, Germania, Regno Unito e Spagna. Noi abbiamo ancora scarsa capacità di attrarre investimenti diretti esteri, però Oscar, come tu sai, visto che per i nostri no euro l'investimento diretto estero è una forma di schiavitù, è un bene che ancora nessuno non ci abbia colonizzati da fuori, giusto? È bene restare autarchici, perché questo dimostra che ci stiamo difendendo bene dal tentativo di invadere e distruggere questo meraviglioso paese. Se tu non lo, se tu lo dici con lo stesso tono, chi ci ascolta non capisce che fai ironia. No, esattamente. No, ma guarda, già mi fraintendono alla stragrande, per cui alla fine la cosa può anche tornarmi utile in futuro. Però, a parte le battute, qual è l'elemento che il rapporto Istat enfatizza ed è la vera criticità? Questa ripresa della competitività italiana negli ultimi 2 anni, per quanto riguarda i fattori di prezzo, perché la competitività non si fa solo col prezzo, contrariamente a quanto crede qualcuno che vorrebbe limitarsi a stampare moneta per essere competitivo, la competitività si fa anche su altre cosine. Però qual è il problema? C'è una voce che è il costo del lavoro. Esatto. Dove noi abbiamo avuto dal 2015, con i sussidi di decontribuzione temporanea al Jobs Act, il nostro costo del lavoro statisticamente è sceso molto e ha contribuito al miglioramento relativo della competitività di prezzo. La domanda sorge spontanea: cosa succederà dal 1 gennaio 2018, quando i sussidi temporanei alla decontribuzione verranno meno? Succederà, e questo già lo si vede nelle statistiche delle previsioni di inverno della Commissione europea, l'Italia avrà un rimbalzo nel costo del lavoro. Quindi torneremo ad avere i soliti problemi che abbiamo sempre avuto. E perché questo? Semplicemente perché il governo negli ultimi 3 anni, quindi un governo nello specifico, ha preferito usare misure temporanee e annaffiare il paese di mance anziché concentrare tutte le risorse disponibili a ridurre in modo strutturale e permanente il costo del lavoro. Questo è il punto l'agenda politica deve maledettamente focalizzarsi. E su questo punto riprendiamo esattamente dopo la pausa di 10.30, perché non a caso, ovvio, li leggono anche loro, per fortuna, questi dati, è uno dei punti fondamentali su cui Gentiloni vuole intervenire, quindi in corso d'anno e in vista della legge di bilancio 2018, chiunque sia al governo a fine anno, cioè cuneo fiscale, perché è esattamente questo è il punto. Lasciami dire, prima di tornare su questo punto, Mario, che io devo dire la verità, l'ho letto ieri pomeriggio e ieri sera tardi, c'è una miniera di altri dati, cari ascoltatori, soprattutto a chi è impegnato, lo dico, questa è la radio di Confindustria, no? A chi fa rappresentanza in tutte le territoriali, le orizzontali, le verticali, le trasversali e le trapezoidali del sistema Confindustria, ma di tutte le associazioni di imprese italiane. Questo rapporto è da leggere molto attentamente, perché ci sono alcune tabelle, per esempio, quando si indica l'andamento, quindi la valutazione dell'andamento della produttività multifattoriale, lo si fa per tutte le classi delle attività economiche, quindi lo si fa per l'industria nelle diverse specializzazioni, per i servizi di mercato nelle diverse specializzazioni. Andate a vedere qual è il divario tra il miglioramento della produttività multifattoriali tra le diverse attività di industria, è importante anche vedere tra le diverse, ma se paragonate, per esempio c'è una tabella a pagina 57 in cui c'è l'andamento della produttività totale dei fattori sopra industria e sotto servizi di mercato, così si vede anche proprio i tuoi occhi, basta buttare uno sguardo per capire, e c'è la differenza tra gli andamenti a dente di sega, ma comunque con bei denti pronunciati, di miglioramento dell'industria rispetto a un livello di servizi di mercato che è desolantemente piatto come l'orizzonte del Calari. Allora, questo è uno dei problemi fondamentali del nostro paese, proprio questo qua, noi ci dimentichiamo sempre che la capacità di generare servizi avanzati, la bassa produttività multifattoriale di quelli per il mercato domestico non esposti alla concorrenza internazionale è uno dei problemi di fondo della produttività italiana. Ecco, questo lo voglio dire perché io l'ho trovato uno strumento, ringrazio Mario che me l'ha assegnato ieri mattina perché avevo una giornataccia, non so cosa ne pensi tu, però questo dovrebbe essere appeso secondo me al MISE come punto di riferimento quando si ricevono le rappresentanze degli imprenditori. Oscar. Ehi. Sì, fammi dire però una cosa che non certo. C'è nel rapporto Istat, sì. Cioè la comparazione con il settore pubblico. Io l'ho fatta proprio stamattina, tanto per complementare, sì. Giusto per farci capire, dal 96 al 2014, mentre la produttività manifatturiera è cresciuta del 18%, quella del settore pubblico è crollata del 9,5%. Giusto per far capire quindi che la zavorra tu stai vera parlando adesso di produttività misura, qual è la tua misura in questo momento? Istat, semplicemente ho preso Istat, l'ultimo report, e l'ho riportato al 96 e ci ho messo dentro anche i servizi della pubblica amministrazione, istruzione e sanità. Ripeti il dato? La forbice chiarissima è che con difficoltà, perché cresciamo a una produttività che è la metà di quella della Germania nella manifattura, ma cresciamo, invece stiamo precipitando ancora per la produttività delle amministrazioni pubbliche. E siccome il PIL pesa per metà la spesa pubblica, è ovvio che poi il risultato è un paese fermo. E diciamocelo chiaro, io almeno personalmente sono rimasto deluso dai decreti legislativi emanati dalla base della piattaforma che è la legge delega riforma Madia, per esempio tutto il salario di merito che doveva essere un driver, no? Anche per generarla la produttività oltre che per valutarla ex ante definendola, ex post premiandola con l'incentivo del salario, è tutto demandato alla materia contrattuale, cioè su questo il governo se ne è lavato le mani esattamente come prima, e quindi io su questo sono molto critico, non so come la pensi Mario. È lo stesso discorso, poi più avanti nel corso della trasmissione parleremo appunto di queste follie, di queste riforme che non riformano, la riduzione di costo, l'efficientamento della struttura non si risolvono chiaramente legiferando una volta, cioè un lavoro di lunga lena. Sì, è un cantiere aperto, certo. Esatto, che implica un'applicazione costante ma anche un cambiamento culturale. Poi lasciami dire, senza fare invasione di campo nell'argomento che toccheremo tra poco. Certo, è un continuum. Il discorso che praticamente non ci sarà beneficio per l'utente automobilista, no, dalla unificazione delle procedure tra PRA e ACI, imputabile in prima battuta alla bollinatura della Ragioneria Generale dello Stato, ma la Ragioneria Generale dello Stato fa il proprio lavoro, cioè a legislazione invariata, certo. Quindi a postazioni di spesa. Non mi tagliate proventi. No, ma es- Esatto, spetta al legislatore intervenire. Bravo. Riducendo corrispondentemente le poste di bilancio in entrata e in spesa. La Ragioneria Generale dello Stato certifica la legislazione esistente e su quella si concentra. Se tu non tagli un taglio di spesa aggiuntiva, io non posso darti semplicemente entrate in meno. Allora, tra un minuto riprendiamo con altri due ospiti sul tema realismo o meno, visto che, come ci dice l'Istat, abbiamo migliorato la competitività in questi due anni essenzialmente per un fattore, cioè l'andamento e l'effetto che c'è stato sul costo del lavoro, anche i bonus, però i bonus finiscono e a questo punto e ripartiamo di qua. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Della belva. Io vedo, eccoci qua, sono tornati in diretta Oscar Giannino e sono collegati con noi gli altri due compari, Mario Seminiero e Alberto Carnevale Maffè. Devo una risposta intanto a alcuni ascoltatori che mandano sms dicendo ma come avevate promesso di occuparvi entro febbraio, poi all'inizio di marzo del tema del ristoro offerto da Vicenza Verona. È vero, lo abbiamo fatto in diverse puntate, neanche questa volta è stato possibile, quindi io mi chiedo scusa, ma noi non è che avevamo promesso e basta. I vertici della banca ci hanno risposto meglio di no. Io ho l'obbligo anche di dirvi, cari ascoltatori, soci della Popolare di Vicenza e Veneto Banca, una mia personalissima preoccupazione aggiuntiva, oltre a la mia opinione è: non date troppo retta a chi vi dice non accettate il ristoro perché tanto entra lo Stato ed è tutto risolto poi dopo e magari vi darà un ristoro maggiore. Sappiate, io lo dico prendendomi la responsabilità come giornalista, io ho l'obbligo di dirvi che questa storia per cui è tutto a posto per l'aumento di capitale precauzionale attualmente è proprio infondata. Cioè attualmente esiste un grande problema, cari soci della Vicenza e della Veneto, irrisolto, totalmente irrisolto, perché la Commissione Europea, la Direzione Generale della Concorrenza, ha allo stato attuale, a ieri, da quello che so, la seguente posizione. Uno, noi non diamo nessun ok a un aumento di capitale sulla base come se fossero già due banche fuse, perché non lo sono. Quindi ci danno i piani come stand alone, banche separate. Uno. Due. Per fare l'aumento precauzionale, cioè il sì all'ingresso dello Stato nelle condizioni della BRRD per l'aumento precauzionale, le due banche nei loro piani che ci presentano devono avere cuscini di capitale a disposizione per reggere tutto l'abbattimento di valore con la copertura degli NPL simile a quella delle quattro risolte. Se non ce l'hanno, gli estremi per l'aumento del capitale precauzionale, gli estremi 1 e 2, non valgono, e se quel capitale non c'è, allora voi siete in bail-in, non siete in aumento di capitale precauzionale. Rapidissimo giro, perdonate, prima di presentare gli altri due ospiti. Carlo Alberto, ti consta che sia così o no? Ma Oscar, lo diciamo da mesi, purtroppo basta leggere la normativa europea, non solo l'abbattimento dei valori delle NPL, ma se è previsto anche una perdita piano per ristrutturazioni, questa va incorporata e va messa nel burden sharing, quindi non basta solo l'abbattimento, ma ci deve essere tutta la perdita piano. Quando lo Stato esce dalla ricapitazione precauzionale non ci deve aver perso una lira, se ha sottoscritto le obbligazioni garantite deve pure guadagnarci, questo deve essere chiaro, lo Stato non ristora un centesimo agli azionisti e agli obbligazionisti bailinati, non lo può fare. Quindi questo come supplemento di informazione rivolto a voi, cari soci, so che i giornali queste cose non ve le raccontano, ci prendiamo la responsabilità di dirvi che le cose a noi costano diversamente. Ma avevamo finito prima con Mario Seminiero sottolineandovi uno dei punti, punto positivo, no? Sottolineato dal report sull'andamento di competitività dell'Italia. Abbiamo guadagnato le posizioni di competitività anche rispetto a Francia e Germania, ma le abbiamo guadagnate sulla quota mondiale del commercio grazie al fatto che su uno dei fattori, cioè il costo del lavoro, in effetti gli effetti del bonus ci sono stati. Il bonus adesso sparisce, c'è un problema di cuneo fiscale invece persistente che resta e quindi i due corni del dilemma. Dopo il bonus, cosa? Oggi leggiamo Corriere della Sera che ci dice: Gentiloni pensa a un piano di intervento strutturale fatto su costi della spesa, per intervenire anche su questo. Quindi si abbandonerebbe la strada alla contestazione dei rientri del deficit con l'Unione Europea, e dall'altra sullo sfondo, due giorni fa, il discorso del ministro Calenda su basta il realismo, abbracciamo il realismo, quindi non bisogna inventarsi bonus e redditi, tra virgolette, non spetta al governo fare il predicatore di ottimismo, come non spetta all'opposizione demolire in nome del pessimismo. Allora, discutiamo di queste due cose con due ospiti, e con noi il professor Dario Stevanato, che insegna diritto tributario all'Università di Trieste, grazie di essere con noi. Grazie a voi per l'invito, buongiorno. E Alessandro Barbera, giornalista della Stampa, buongiorno Alessandro. Ciao Oscar, buongiorno. Cominciamo con la parte, diciamo, tecnico-fiscale del professor Stevanato. Si aspettava una svolta di questo tipo? Cioè, mi pare di capire che il governo Gentiloni sta facendo un bilancio autocritico sui bonus, non solo Calenda. Il pezzo del Corriere della Sera di oggi ci dice: strategia diversa, intervento strutturale sia spesa che cuneo fiscale. Lei che pensa? Ma sembra di sì, ci sono stati sul punto anche gli ultimi interventi dello stesso Renzi, che un po' spiazzanti a mio avviso nel fatto della lettura, che nuova lettura che è stata data del bonus, no? Perché la rivendicazione fatta dal governo era che si trattasse di riduzione di imposte, ma da ultimo abbiamo letto nel blog di Renzi che viene inquadrata come misura di sussidio, di trasferimento redistributivo. E però se fosse redistributivo non capisco perché concentrarlo sopra la fascia degli incapienti. Questo è il punto. E dal punto di vista delle cose da fare, e quindi anche di una valutazione dell'esperienza bonus 80 euro, che pure insomma qualche aspetto positivo l'ha certamente avuto, però non c'è dubbio che si è trattato di una misura discursiva. La questione è riesplosa con la pubblicazione dei dati delle dichiarazioni, da cui è emerso quello che però già si era intuito, cioè che i punti di discontinuità in corrispondenza della quota esente attorno agli 8.000 e della decrescenza rapida del bonus a 24.000 hanno prodotto uno sconquasso nel già disastrato quadro complessivo dell'IRPEF, cioè quindi aliquote marginali altissime, negative in un caso, positive nell'altro, quindi disincentivi al lavoro, trappole di povertà, sono tutti aspetti di distorsione del bonus che non possono essere dimenticati. Quindi se si vuole, diciamo che secondo me l'obiettivo che poi si sposava con quello della riduzione IRAP va nella direzione giusta, cioè tutti, credo, i commentatori riconoscono che il problema, l'avete detto un attimo fa anche voi, risiede nella necessità di ridurre il cuneo fiscale e il costo del lavoro. Probabilmente i mezzi sono stati i meno idonei, più sbagliati, che appunto hanno creato distorsioni e disparità di trattamento di varia natura. Allora, questo come premessa generale, poi vediamo una questione tecnica su come raccordare il vecchio bonus con interventi possibili secondo il professor Stevanato. Ma nella cornice generale di lettura di quello che succede dietro il visibile tra governo Gentiloni e governo Renzi, e su questo che chiedo l'aiuto di Alessandro Barbera, ci sono i margini della trattativa con Bruxelles A, B, nella valutazione che fa Padoan, secondo quello che percepisce ogni giorno, perché sei un osservatore, però sei anche un osservatore di quelli considerati autorevoli, abilitati all'accesso diretto al ministro, le interviste, eccetera, siete pochissimi in Italia, quindi per questo lo chiedo in questo modo. Tu vedi davvero i termini di una, tra virgolette, svolta realista, mettendo insieme il segnale di oggi, Corriere della Sera, quello che ha detto Calenda, oppure siamo noi giornalisti che stiamo esagerando? Una qualche verità c'è, mettiamola così: l'approccio di Renzi con Bruxelles era un approccio muscolare e molto politico, che evidentemente parlava anche all'elettorato, ma era un approccio che non era particolarmente efficace. Gentiloni ha uno stile totalmente diverso, l'avete visto, parla pochissimo, è peraltro, diciamo, in una condizione politica molto diversa, però secondo me Padoan con lui nei confronti di Bruxelles può avere una strategia più, mettiamola così, un po' più abile e furba. Renzi non ha voluto tagli pesanti alla spesa nei tre anni del suo governo, ha fatto bene, ha fatto male, non stiamo a discutere di questo. No, certo. Andiamo al punto. Il punto è che pochi tagli alla spesa ha significato poco spazio per riduzioni strutturali di imposte. Allora, la questione è: se Gentiloni, la domanda alla quale io personalmente ancora non ho risposta, ma evidentemente la risposta che stanno cercando a Palazzo Chigi con Bruxelles, è se una strategia diversa, riuscire a convincere la Commissione ad accettare un livello di spesa, comunque un deficit superiore a quello che le regole europee oggi ci imporrebbero, in cambio di una strategia seria di riforme e di tagli alla spesa più forti di quanto non ci sono stati fino ad oggi, se questo può essere abbastanza per dare alla Commissione la possibilità di darci più margine per tagliare il cuneo fiscale. Ricordo che il cuneo fiscale italiano con la Germania è tuttora superiore di quasi una trentina di miliardi di euro. Abbiamo bisogno, e quello che dice Calenda, ma i fatti ci dicono che c'è bisogno di una riduzione strutturale del costo del lavoro, perché questa è l'unica condizione che dà alle imprese la certezza normativa per investire, e soprattutto questo va fatto in una logica, mettiamola così, omnicomprensiva. Se l'obiettivo del governo Renzi era dare gli 80 euro in quel modo lì, perché in quel modo lì si poteva vedere nelle busta paga che Renzi stava dando 80 euro a ciascuno, ecco, è possibile che a Gentiloni di tutto questo gliene freghi nulla. Traffico e torniamo subito con gli stessi ospiti. Faircam Distribution, la soluzione adatta per la spedizione dei vostri prodotti in Italia e in Europa. Faircam.com vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte e fino alla morte l'Italia pagò. Sì! I conti della belva. Allora, svolta di realismo in corso, Calenda più vedi Corriere della Sera oggi, Federico Fubini nell'impostazione, Alessandro Vera ci ha detto, beh, insomma, la maniera di approcciarsi verso Bruxelles effettivamente è diversa, e io però al professor Stevanato ripongo una questione. Che raccordo immaginabile? Alla luce di quello che ci ha detto Alessandro Barbera, prudentemente, ma è vero che c'è un'impostazione diversa. Poi vedremo cosa succede, perché vedremo con congresso PD, lo sappiamo, insomma, l'indagine è in corso, ma al netto di tutto quello, lo studioso del diritto tributario, che tipo di raccordo immagina tra il venir meno della massiccia decontribuzione da una parte e degli 80 euro dall'altra, e il problema strutturale che abbiamo messo a fuoco, che è il problema strutturale invece di dare una certezza universale, non follemente random negli effetti per soglia di reddito, della trasformazione progressiva che al bonus ha dato un'altra botta in testa, ma insomma potentemente rafforzando l'idea che moltiplichiamo e spezzettiamo le maniere diverse con le aliquote reali di tassare i pezzetti di cespiti realizzati di reddito, di cespiti diversi nel nostro paese, perché questa oramai è la geografia dell'imposizione sul reddito nel nostro paese. Quindi a questo punto, secondo lei, un primo passo quale potrebbe essere invece? Un primo passo è, a mio avviso, superare la logica dei tanti microsistemi fiscali che abbiamo. Il bonus 80 euro non ha fatto altro che aggiungere un altro pezzo al patchwork, a questo arlecchino che è diventata l'IRPEF. Cioè, se ragioniamo di imposta personale, quindi uno dei principali corni del dilemma, l'altro è l'aspetto contributivo, ovviamente riferito al costo del lavoro, a mio avviso la strada passa per una semplificazione, una riduzione dei regimi speciali, una unificazione delle basi imponibili il più possibile e una convergenza delle aliquote. Ora, uno dei punti di approdo potrebbe essere l'aliquota unica, ma se non si vuole percorrere quella strada o se in via intermedia si preferisce andare per piccoli passi, un ridisegno della curva delle aliquote. Non è possibile avere un sistema con salti di aliquote di questo tipo, al di là di quelle legali, no? Nel passaggio cruciale tra i 28.000 euro e lo scaglione successivo c'è un salto di 11 punti. Se si vanno a vedere però le aliquote effettive marginali, si vede un sistema totalmente impazzito e fuori controllo, e in cui tra l'altro non riesce nemmeno a differenziare redditi di diverse entità, per cui in sostanza abbiamo una prima intervallo che va fino alla soglia di esenzione di 8.000 euro, un secondo mega scaglione che sta un secondo scaglione che va tra gli 8.000 e i 28.000, da 28.000 in più si appiattisce la curva. Quindi in sostanza c'è subito una forte progressività sui redditi bassi e poi una oltre i 28.000 un appiattimento della curva. Non c'è dubbio che si possa intervenire su questo, diciamo, come primo passo almeno su questa situazione si è venuta a creare attraverso un ridisegno della curva e anche delle di detrazione e deduzione, anche sfondandone alcune del tutto inutili e che hanno solo una finalità elettorale, che secondo me si spiegano solo con la volontà del legislatore di usare poteri discrezionali nei confronti di lobby di varia natura che nel nostro paese insomma si fanno sempre sentire. Ah, tra l'altro io colgo l'occasione, sembra che non c'entri nulla ma c'entra, cari ascoltatori, come temevamo, vi ricordate quando abbiamo fatto il primo approfondimento dedicato ai PIR, no? Questi piani di investimento per convogliare il risparmio direttamente verso le imprese quotate piccole del nostro paese, che partiene in questa legge di bilancio che ha un sostanzioso e molto appealing sgravio fiscale. Attenzione cari ascoltatori, perché molti di voi scrivono e ci segnalano casi di... Si è moltiplicata immediatamente l'offerta da parte dell'industria del risparmio italiano, però c'è qualcuno che dice: ma io veramente ci avrei 10-15 mila euro, mi propongono di mettere, di fare un bel PIR perché tanto è tutto in esenzione. Capisco, l'ha appena confermato il professor Stevanato, il problema di portare a casa la parte più bassa del vestito di Arlecchino che propone l'ordinamento italiano, perché ricordo che no, per i redditi da capitale qui si paga il 12,5, il 20, il 26 a seconda di cosa abbiate in mano, è quello può essere. Ma l'IRPIR non è uno strumento per concentrare rischio in quel modo, quindi se ci avete cifre di quel genere lì invece che un portafoglio già molto diversificato, mi dispiace, chi ve lo sta offrendo non sta facendo bene il suo mestiere. Chiusa parentesi, caro Alberto, mi sbaglio secondo te? No, non ti sbagli, però se posso fare un commento, i PIR va nella direzione che chiede l'Unione Europea, cioè sì, riduzione delle tasse sul capitale investito e spero anche sul lavoro. Rispetto però, fammelo dire, all'aumento delle tasse sui consumi, quindi aspettiamo un'IVA che dal 22 vada verso il 24, magari il 25%, e il ritorno delle tasse sugli immobili. Gentiloni e Padoan, perché otterranno flessibilità e investimenti meglio e più di Renzi? Perché sta facendo la cosa giusta che chiede l'Europa, non il contrario che ha fatto il governo Renzi. Quindi sai bene che adoro il proporzionale io, no, gli io effetti no. Su questo governo io debole no. Perché finalmente nessuno deve mantenere promesse elettorali senza senso e può fare le cose giuste. Guarda, io sono molto ottimista dopo gli ultimi giorni. Mario, anche tu? Oddio, io sai, io sono difficilmente ottimista. Esatto. Però no, sui PIR comunque sono assolutamente d'accordo. Noi lo abbiamo detto da subito, questo va a nostro merito come trasmissione di servizio. Ricordate, cari ascoltatori, la diversificazione, perché il PIR è illiquido, è un finanziamento esatto, effettivamente all'economia reale, va, è vero, come dice Carlo Alberto, nella direzione di come dire, suggerimenti comunitari e quant'altro, ma, esatto. Come sempre, in questo paese i suggerimenti comunitari tendono ad essere declinati in una maniera piuttosto distorsiva. Sì, sono molto d'accordo con me, simile. Però Alessandro Barbera, dacci la benedizione, visto che sei un giornalista, ma vicino anche, considera, insomma, io mi fido dei segnali interpretativi di Alessandro Barbera, l'ho già fatto capire a chi ci ascolta. Questo tentativo in corso la porta a casa sul serio questa legge di bilancio? Possiamo sperare che restino loro, visto che Carlo Alberto è così il loro fan, ottimista, ma restano loro? Anzitutto Carlo Alberto sbaglia quando fa il fan del proporzionale, perché la verità è che questo governo semplicemente fa di più quello che vuole l'Europa, perché è un governo più debole, quindi è il vincolo esterno che gli fa fare le cose giuste, che ovviamente Carlo Alberto ritiene giuste, che anch'io ritengo giuste, ma è anche un governo politicamente molto debole, quindi diciamo, guardiamo la medaglia sempre in tutte e due le sue esatto, facce. Allora, primo sì, il governo farà sarà questo il governo a fare, sarà il governo Gentiloni Padoan a fare la legge di bilancio, ormai è sicuro. Non vedo alternative, ricordo che nella storia repubblicana non è mai successo che si votasse in autunno e non credo che questa sarà la prima. Non ma lo vediamo già dal DEF tra poco, secondo te, la svolta? Ma il DEF è fatto di numeri, nei numeri o quello che può esserci, sarei sorpreso se lo vedessi una forte inversione di tendenza sul taglio alla spesa. Non ci credo, però vabbè. Non ci credo neanche io, lo vedo molto difficile, vedo difficile che ci siano le condizioni politiche per farlo, perché comunque fino a prova contraria Matteo Renzi è, diciamo, la sinistra di maggioranza di questo governo e non vuole una manovra lacrime e sangue, quindi io non vedo un'inversione di tendenza così marcata. Naturalmente intendiamoci, se le condizioni dei mercati, le condizioni diciamo di contesto rimangono queste, perché se vincesse Marine Le Pen alle elezioni francesi parleremo di tutta un'altra storia, ecco, quindi diciamo lo diciamo a condizioni date. A condizioni date io non vedo le condizioni per una svolta così netta. Può essere? Quello che certamente può esserci, può esserci una maggiore, una linea più europeista, nel senso di più in linea con le raccomandazioni, perché questo è quello che pensa Padoan, e quindi un innalzamento dell'IVA alla fine dell'anno. Mamma mia. In cambio di un intervento probabilmente importante e deciso sul cuneo fiscale. Questa è la cosa possibile. Vedremo, questo lo vediamo nella prossima legge di bilancio. Io, da quello che so, Renzi è contrarissimo a questa cosa. Però questo sono, non voglio far pesare con la mia opinione. Chiedo a Dario Stevanato e Alessandro Barbera, brevi entrambi. Ieri il responsabile del Centro Studi di Confcommercio ci ha detto: approfittiamo di questa finestrina che sembra aprirsi nella politica, poi vedremo se dura o no, per chiedere una cosa. In realtà si stava rivolgendo all'editore di Confindustria, a mio tramite, non a me, perché non conto niente. Cioè diceva: chiediamo un seminario riservato a Padoan, se vuole venire anche Gentiloni, ma almeno a Padoan, ai vertici del MEF, un seminario riservato in cui ci chiediamo per due giorni da una parte e buttiamo giù le possibili ipotesi tecniche per un intervento ragionevole di convergenza delle aliquote sul reddito, e però cominciando dall'IRPEF, la cui riforma è promessa per il 2018. Stevanato, vedi margini? Cioè, una cosa del genere sarebbe utile? Mi dici di sì, ma ci credi? È possibile immaginare una cosa simile, una modalità simile, riservata, operativa, in cui la politica si mette in ascolto di voi che ne capite? Ma che sia utile non c'è dubbio. Le migliori riforme fiscali di questo paese sono state fatte quando sono state nominate commissioni tecniche che hanno avuto un attimo di tempo per lavorare e per produrre degli elaborati che poi la politica ha fatto proprio. Questo si riesca a fare in un seminario di due giorni di nascosto, non so, francamente. Tu vorresti una vera e propria commissione. Possibilità, Alessandro Barbera, che idee di questo tipo vengano raccolte dall'attuale impostazione politica del governo Gentiloni? Gentiloni sembra avere l'aria di quello che è pronto ad ascoltare. La verità è che le cose che dobbiamo ascoltare di più sono le raccomandazioni della Commissione. E le raccomandazioni della Commissione tutto sommato sono, da un certo punto di vista, ragionevoli. Io penso che la vera svolta che il governo Gentiloni dovrebbe fare, e che io personalmente mi auguro che faccia, è nel comprendere che solo riforme di lungo periodo, benché sia un governo che ha un orizzonte breve, solo riforme strutturali di lungo periodo e non cose che durano un anno o due. Questa io abbraccio la tua idea, non credo a niente in termini di realizzazione a breve di questo, ma spero di sbagliarmi. Torniamo a Poggiere. Domenica, ore 14:30, Voice Anatomy, Radio 24. Non mancate. Sarebbe un peccato. Parola di Bond. James Bond. Fratelli d'Italia, l'Italia alle mesta. Dai tempi di Scipio finita è la festa. Stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. E fino alla morte l'Italia pagò. Sì. I conti della Belva. Ed eccoci qua, tornate alle 11:07 primi e 18 secondi in diretta. Solo sul letto del studio di Milano, ma con i compari collegati, sia Carlo Alberto. Ci sei, Carlo Alberto? Sì? Ci sono. Ci sei ancora, Mario? Ci sei anche Mario? Eccomi. Eccolo, ciao. Qua. Allora, iniziamo a vedere alcuni ascoltatori che intervengono sui temi che abbiamo trattato. Cominciamo con Ennio, che ci chiama dalla provincia di Verona. Ennio, prego. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Volevo dire, ho ascoltato con molto interesse la breve panoramica fatta dal signor Mario, o dottor Mario, non so, purtroppo ho perso la parte iniziale della trasmissione, nella quale il nostro Mario Seminario, ma Mario, per tutti i nostri ascoltatori, non è Mario, però insomma, Mario Seminario è una, diciamo, svolge un compito tale per cui lo può chiamare dottore come vuole, ma insomma è dottore sicuramente, però insomma è un punto di riferimento per noi, ecco. Allora, perfetto, prego. E dicevo, nel quale nel suo breve discorso ha informato in forma concisa. Ha esposto alcuno dei problemi dell'azienda Italia, non per ultimo quello del costo del lavoro, che dal 2018 dovrebbe riprendere a crescere, da mancare e... Non si sente, ohimè ragazzi, o ci fate un collegamento migliore. Lei dov'è? Pronto? Sì. Ecco, no, tenti di non spostarsi, perché dice, allora, arriviamo al punto. Come? Niente, non, così non possiamo andare in onda perché non riusciamo a capire, sentiamo oltretutto anche qualcosa che si sovrappone. Antonio da Latina, mamma mia, certo che le infrastrutture italiane, poi diciamo che noi siamo un paese avanzato. Antonio, prego. Buongiorno, grazie per l'ospitalità. Dunque, io volevo semplicemente dire una cosa. Questa Europa è una medaglia con due facce. Sì. Per la classe dirigente, l'establishment, come piace dire a tante persone, ed è un grosso successo, anzi proprio a gonfie vele, mentre dall'altra parte ci sono i popoli che vedono un fallimento totale. E per fortuna che l'establishment parla in termini incomprensibili, che ci vorrebbero trattati di economia per capire che cos'è il benchmark, il bail-in, lo spread, perché così il popolo rimane con i piedi per terra e guarda quello che succede. Oggi quello che sta succedendo è, tra l'altro, Prodi, uno dei maggiori responsabili di questo fallimento per il popolo, chiaramente, non si vergogna a ripresentarsi in pubblico quando lui, se ve lo ricordate, disse che lavoreremo di meno, guadagneremo di più, ed è stato il primo ad ammettere che il primo errore fatto da lui è stato quello di adeguare l'euro alla lira, l'adeguamento dell'euro che ha visto dimezzare il potere d'acquisto degli italiani. No, guardi, scusi, adesso io la faccio fare quanto vuole, ha esposto, ha detto chiaramente, ha fatto capire come la pensa. Adeguare l'euro alla lira, non so cosa voglio dire. Dimezzare il potere d'acquisto degli italiani, mi dispiace, la devo interrompere dicendo o ci mettiamo a parlare e capiamo di cosa vuol dire, o altrimenti, guardi, proprio non è così. Sulla famosa storia della storia di cambio 1936, mille volte vi abbiamo spiegato, poi se non volete ascoltare, fate come volete, che il meccanismo era definito da una serie tecnica di passaggi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi non è che c'è stata una trattativa libera con qualcuno che ha imposto in cambio di tangenti pagati a chi rappresentava l'Italia, la soglia di cambio e così via. Poi sulle modalità con cui in alcuni settori sono riscattati i prezzi, anche questo ne abbiamo parlato un miliardo di volte. Sul fatto però che si paragona l'inflazione, cioè l'indebolimento del potere d'acquisto, una cosa di cui ha parlato lei, nel periodo pre-euro e post-euro, ebbene mi dispiace, i fatti, cioè i numeri, le serie storiche dimostrano, caro ascoltatore, che l'indebolimento del potere d'acquisto degli italiani c'era con la lira che si svalutava. E man mano che siamo entrati in cambi fissi, invece è diminuito. Questo poi potete credere a quello che volete. Però io l'ho interrotta, quindi lei a questo punto riprenda, solo perché ho l'obbligo come conduttore su alcuni punti di chiarire, ma non voglio farle cambiare idea, però concluda. Io so quello che vedo. Allora, se prima con un milione di lire ci si arrivava a fine mese, oggi con 1.000 euro a fine mese non ci arrivi. Questo è il punto. E comunque sia, il fallimento dell'euro è dato dal fatto che oggi, quando si viene a dire che 1.500 milioni di persone stanno meglio di prima, se permettete, chi l'ha pagato questo stare meglio sono quelli che già stavano peggio. Perché? Perché mentre la classe, i ricchi, diciamo, la forbice si è allargata, ciò significa che se uno si è arricchito e l'altro si è impoverito, vuol dire che tutto questo benessere in più diffuso in tutto il mondo, la globalizzazione, lo sta pagando la povera gente. No, la povera gente era il miliardo e mezzo che era sotto l'economia di sussistenza. Ma perché quelli, i poveri, Antonio, oggi in Antonio, non che sono non poveri. Ci sono più sotto l'economia di sussistenza. Potete dire, me ne fotto, che crepino, potete dirlo, ma io alzo la voce, Antonio, perché io invece penso che qui non c'entra l'economia. No, lei ha detto che lo paga chi sta peggio. Chi stava peggio, siccome ha fatto l'elenco sul totale degli abitanti del pianeta Terra, erano loro. E questo, mi dispiace Antonio, è falso, punto. Prossimo ascoltatore. Che brutta storia dover fare il conduttore. Cosa dite, cari ascoltatori? Che non devo reagire, vero, in questo modo? Devo lasciare dire a tutti? No, se vuoi reagiamo noi, Oscar, non c'è problema. L'ascoltatore di prima probabilmente legge le statistiche sugli ovetti Kinder, non so perché palesemente... No, ma io non voglio insultare nessuno, però non si può dire che il miglioramento delle condizioni globali, lui di quello stava parlando, non stiamo parlando dei redditi italiani, è avvenuto a spese di chi stava peggio, e chi stava peggio che è uscito... Ma è una falsità, il reddito reale degli italiani per carità non è cresciuto come gli altri, ma certamente non è diminuito, l'inflazione del periodo dell'euro è a meno di un terzo di quella della media degli anni precedenti, ma vogliamo ribadirli questi numeri o c'è gente che pensa di formarsi le opinioni leggendo qualche sacro blog di qualche ciarlatano? No, non è questo. Cioè, è un problema generale però, caro Alberto e Mario, io questo ho l'obbligo di dirvelo. Ma è un problema generale, ma noi genericamente no, diciamo è un problema generale perché in realtà il rumore di fondo che viene dagli ascoltatori è questo. Quindi è un problema anche per noi. Voi non fate il mio mestiere, ne fate di molto più autorevoli. Però, Mario, questo è un problema che c'è. Io non so come la pensi sul fatto che oramai nell'opinione pubblica italiana, nel mainstream, come dicevi, la gente, l'opinione di chi non capisce i termini e così via. Però l'opinione è: l'euro è stata una macchinazione impostaci dai torbidi personaggi e in realtà l'ha pagata chi stava peggio, compresi i poveri del mondo a questo punto. Siamo entrati male nell'euro. Perché io ricordo quando Prodi decise l'ingresso, tornando da Madrid, quando era andato a mendicare da Aznar di entrare in secondo turno con loro e Aznar disse di no, Prodi tornò in Italia e con Ciampi fecero un bel blocco del tiraggio di tesoreria, misero l'eurotassa e quant'altro. Sì. Ma è colpa degli organismi europei? Del coordinamento tra paesi europei o è colpa dell'interpretazione che questo paese ha dato della convergenza europea? Cioè facciamoci questa domanda. E questo è il problema. È esistito un dividendo dell'euro? Forse sì. Sicuramente sì nella riduzione del premio a rischio per l'Italia, ma l'Italia è andata avanti imperterrita col tassa e spendi. Non ha ristrutturato la propria economia. Adesso tutti i guaritori e i venditori di olio di serpente che vengono a dirvi che uscendo dall'euro si risolve tutto, a farcela, eccetera, esatto. Eccetera, io vorrei tanto, ma tanto, che noi venissimo trasportati in un universo alternativo dove improvvisamente siamo all'indomani dell'uscita dall'euro. Io no, però. Vorrei trascorrere alcuni giorni di assestamento e di tentativo da parte di questi scienziati. Cosa dici. Per poter consentire a tutti di assistere alle cose. Questi scienziati noi dopo li dovremmo salvare dalla forca, perché il loro popolo li andrebbe a cercare per impiccarli in piazza in Vabbè, io posso dirti, Mario, io aborro comunque in questo linguaggio che loro hanno fomentato, i cappottini di abete, tutte queste cose qua, fingendo di essere fini intellettuali mentre amano affacciarsi a un balcone e avere sotto qualcuno coi labari, perché questo è il punto. Poi sono anche marxisti, peggio, perché io non faccio grandi distinzioni. Ma detto questo, siccome è il linguaggio a cui noi dobbiamo sempre guardarci, resta il fatto che, siccome io con gli interrogatori penso che noi dobbiamo parlare, ma quando arrivano molti di loro a dire quello, cosa fa? Il conduttore cosa deve fare? Deve fare il pluralista che consente a tutti di dire cose che sono infondate? Loro ti rispondono: non sono infondate, sono fondate, ma tu non lo vuoi ammettere. Ecco, viviamo in un mondo in cui mi dispiace dirvelo e mi dispiace due volte, perché voi siete autorità vera, il giornalista non è un'autorità. E il problema è che moltissima parte dell'opinione pubblica italiana ha ricavato da questi ultimi 20 anni una lezione, che ogni numero è manipolabile. Questa è la tragedia che io vedo negli sms e nelle telefonate. Ogni numero è manipolabile, quindi solo le idee forti, quelle sì, sono le idee vere. Mio Dio. Allora, chiusura di questo capitolo e adesso andiamo al problema della motorizzazione. Due registri in Italia, sempre due registri. Ma perché? Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte, l'imposta è più forte. Conti della Belva. Eccoci qui, tornati in diretta. Tema: per l'ennesima volta era preannunciato l'unificazione del certificato di proprietà dell'auto e del libretto di circolazione, e quindi l'unificazione anche di questa specificità italiana, per cui abbiamo da una parte il pubblico registro automobilistico, che è affidato in esclusiva all'ACI dal 1927, e dall'altra il Ministero dei Trasporti, che invece gestisce l'Archivio Nazionale dei Veicoli. È una storia molto lunga. Mi limito a segnalare ai nostri ascoltatori, se andate a vedere sul sito dell'autorità di garanzia del mercato, l'antitrust, andate a leggervi su questo argomento, fatelo, non è necessario essere tecnici del ramo concorrenza, per leggervi il parere emesso il 1 febbraio 2017 dall'autorità garante della concorrenza del mercato, l'antitrust, esattamente sul punto di cui stiamo parlando. Esattamente, cioè è stata chiamata a pronunciarsi e si è pronunciata su i problemi connessi, esistono o meno e quanto gravi se esistono, i problemi dovuti alla doppia tenuta del registro. Esiste un conflitto di interesse tra il PRAD e l'ACI e invece l'Agenzia Nazionale dei Veicoli del Ministero dei Trasporti e Motorizzazioni? Risposta netta dell'antitrust: sì, esiste ed è grande come una casa. E vengono documentati tutti i motivi ordinamentali per i quali l'ACI si trova insieme a essere concorrente e insieme però selettore necessario di passaggi di accesso per documenti, anche per ciò che in realtà dovrebbe fare la motorizzazione. Quindi le considerazioni conclusive dell'antitrust sono nette e inequivoche, nel senso che l'antitrust chiede che il decreto legislativo che doveva essere emesso dalla norma Madia faccia un passo sostanziale per l'unificazione delle banche dati, invece di mantenerle in atto e separate, e non solo con aggravi di costo per gli automobilisti, ma alimentando un continuo conflitto di interesse che non sarebbe superabile nemmeno con la dematerializzazione del documento di proprietà, che è stata la controproposta dell'ACI. Risultato: niente di tutto questo. Il decreto delegato si è fermato allo scontro tra ministri e le indiscrezioni giornalistiche hanno descritto un Del Rio sconfitto che voleva l'unificazione, mentre Lotti si è battuto per la separazione e per l'ACI. Queste sono le indiscrezioni giornalistiche. Come diavolo sia possibile da decenni andare avanti in questa situazione? Naturalmente so già di essere attenzionato dall'ACI, dal Ministero e così via. Beh, ho chiesto a tutti, volete venire? Risposta no. Allora, ho chiesto invece di portare qua la voce di coloro che poi fanno il più delle pratiche, perché poi questo è il punto di fondo, cioè naturalmente i privati che hanno le agenzie e che si occupano di dare una mano agli automobilisti che spendono poi naturalmente le centinaia di euro. E quindi abbiamo con noi Alessandro Cherubini, che è della Segreteria Nazionale dell'Ufficio Studi dell'UNASCA. Buona giornata e grazie di essere con noi. Buongiorno anche a lei e un saluto a tutti i radioascoltatori. Allora, c'ho anche degli ascoltatori che poi vogliono intervenire e gli diamo la voce. Mi dice la vostra sommessa opinione, che so deve istituzionalmente rispettare tutti gli interlocutori istituzionali, perché voi avete a che fare con entrambi, con il Ministero, con la motorizzazione, con l'ACI e così via. Ma da spettatori, ma attori del sistema, visto che anche voi gli oneri vi gravano nel vostro bilancio e dovete tentare di tenere buoni e accontentare anche i clienti, cioè gli automobilisti, la vostra sommessa opinione è che perché ogni volta tutto torna alla casella zero del gioco dell'oca? Lei mi sta facendo una bella domanda. Diciamo che credo che nella gestione del pubblico registro ci siano degli interessi piuttosto probabilmente importanti. Noi più che altro quello che nel tempo insomma stiamo facendo come attività sindacale è quella di collaborare con entrambe le amministrazioni per mettere in piedi un sistema che sia veramente efficace, semplice e soprattutto il meno costoso per quanto riguarda il cittadino automobilista. E però anche stavolta erano stati promessi dei risparmi, si diceva 32-39 euro. Sì. Cioè. Zero, perché se uno va a vedere il testo che ieri è uscito fuori, il testo si dice che non deve superare la cifra esistente, il che significa che non ci sono sgravi, o no? No, infatti, questa è stata la sorpresa. Consideri, proprio per fare i cosiddetti conti della belva, un trasferimento di proprietà di una piccola macchina utilitaria all'incirca nel complesso costa 300 euro, parliamo quello di fascia proprio base. Consideri che di queste 300 euro, 196 ne prende la provincia di appartenenza dove risiede appunto l'acquirente, e il restante vengono suddivisi 27 euro la Cipra per i suoi monumenti, dove percepisce anche 32 euro di imposta di bollo. Questo è fronte a Cipra, poi fronte motorizzazione, proprio perché siamo in presenza di due archivi, spendiamo 16 euro di imposta di bollo per l'istanza in motorizzazione e le 10,20 euro per i diritti di motorizzazione. No, ma lei, io la ringrazio perché sta rendendo evidente anche a chi non ha fatto una pratica recentemente che il doppio Moloch ha doppi costi. Allora, poi ci sono degli ascoltatori che vengono evidentemente all'interno del mondo ACI, mi dicono: è falso quello che lei ha detto sul parere antitrust, ne risponderà. Allora, perdonate, allora scusi, caro ascoltatore, bollettino numero 4 del 6 febbraio 2017, parere emesso dall'antitrust, procedo alla lettura perché i nostri ascoltatori non pensino che io mi invento le cose. Allora, l'autorità, anche sulla base di segnalazioni ricevute, ha riscontrato inefficienza dovuta alla tenuta di due banche dati distinte, nonché situazioni di conflitto di interesse in capo a un soggetto, ACI, leggo, che svolge contestualmente la gestione del PRA anche servizi in concorrenza che richiedono l'accesso al PRA e l'utilizzo delle informazioni ivi contenute, e che ha altresì avuto modo di definire aspetti rilevanti dei servizi relativi all'accesso e fruizione del PRA. Esattamente quello che ho detto prima. Continua l'autorità, e qui mi fermo dopo la prossima frase che leggo. Al riguardo si evidenzia come l'ACI ha di recente adottato un'iniziativa in materia autonoma volta all'introduzione del cosiddetto certificato di proprietà digitale, quello dematerializzato di cui parlavo prima, caro ascoltatore che mi accusa di falso, mediante modernizzazione dei CDP cartacei, che risulta avere pregiudicato la cooperazione tra le banche dati del sistema nazionale e del PRA dell'ACI. A seguito dell'introduzione del CDP, infatti, per lo svolgimento di alcune formalità, tra cui quelle relative al trasferimento di proprietà degli autoveicoli, è necessario accedere ad un applicativo oggi disponibile unicamente attraverso il canale telematico ACI. Ciò ha reso ancora più evidente l'inadeguatezza di un contesto caratterizzato dalla presenza dei due registri. Caro ascoltatore dell'ACI, vuole che continui o è chiaro che forse è lei che non l'ha letto il parere? Mi scusi, mi scusi Cherubini, ma io devo rispondere a chi mi dice questo. Torniamo a toni un pochino più pacati. L'automobilista a cui vi rivolgete oramai è rassegnato? Sì, consideri che nei primi giorni dopo lo schema di regolamento, anche grazie alla campagna mediatica, erano notevoli le telefonate che ricevevamo negli studi professionali, dove appunto ci dicevano: sì, ma adesso questa cosa costa già 59 euro in meno. Sa, è difficile in questo momento fargli capire al cittadino. Ma è l'effetto annuncio, che naturalmente poi significa che non si fidano di voi. Dice: no, veramente si paga come prima. Ma come? C'è scritto che si paga di meno, o no? Purtroppo sì, è vero. È vero anche che alcune volte siamo un pochettino inquadrati come quel balzello, no, dovuto all'intermediazione, che in effetti però non è così. Perché quando comunque il cittadino è libero di rivolgersi anche al consulente privato, mette in campo tutta una serie di attività proprio a tutela del cittadino. Però le faccio una domanda, che mi viene da uno degli attori. Risulta anche a voi che però la motorizzazione, quindi il ramo pubblico, per così dire, pubblico, perché anche là ci fa parte dei soggetti pubblici, se non lo faranno uscire entro fine anno, perché vediamo se è possibile pure. Ma detto questo, è vero che la motorizzazione è così sotto organico che per esempio tutto il mercato delle vendite sul mercato secondario dell'usato italiano verso l'estero è praticamente bloccato in 2/3 d'Italia? Ma non mi risulta, anche perché motorizzazione nel campo delle vendite dei veicoli all'estero francamente non ha, non è vero. Lui riceve delle informazioni telematiche, però ad oggi col sistema attuale se lei deve presentare una richiesta di cancellazione per esportazione lo può fare entrambi nei soggetti indicati dallo sportello telematico. Ecco, no? è proprio su questo però che ci si dice, sono segnalazioni quegli ascoltatori che dicono in realtà la cancellazione è ormai in ritardo di mesi e mesi e non si può più vendere. Però lei ci dice che non gli risulta. Questo magari può essere per un effetto frutto di una circolare di ACIPRA, una circolare di ACIPRA che ha comunque in qualche maniera dettato delle linee comportamentali, siccome poi mettono in campo anche altri soggetti, a secondo magari se parliamo di esportazioni negli ambiti UE o extra UE. Abbiamo negli ambiti extra UE delle problematiche di lunghezza dei tempi, proprio perché da centrare il problema, perché l'ascoltatore che ce lo segnalava diceva esattamente che veniva loro lui spiegato e lui è bloccato, non riesce a procedere per la cancellazione a seguito del pretesto, la ragione che gli viene adotta è quella dell'indurimento delle ragioni antiriciclaggio in alcuni mercati europei extra UE. Quindi lei dice è una circolare dell'ACE, no, questo per spiegare al nostro ascoltatore di che si tratta. Sentiamo ancora un altro ascoltatore che interviene, Claudio da Reggio Emilia, che voleva intervenire su questo punto, quindi magari così poi lei può rispondere al problema che pone. Claudio, prego. Linea? Sì, sì. Dica. Allora, vi ho ascoltato, avete esposto tutte le vostre cose che sono un po' indecifrabili per noi che siamo utenti o quantomeno. Volevo segnalare il fatto che c'è un vuoto legislativo in tutto quello che è il PRA e la motorizzazione. Mi spiego meglio. Quando si ha bisogno di mettere in strada dei veicoli che sono storici e quant'altro, non c'è collegamento tra motorizzazione e il PRA. In sostanza, quando hai bisogno di avere risposte, vai dal PRA, poi dopo vai in motorizzazione e uno dice che doveva fare prima lui, prima l'altro, paghi, in sostanza file interminabili, perché c'è un vuoto legislativo del fatto anche che i veicoli comprati all'estero non c'è la possibilità storici non c'è la possibilità di presentare la pratica se non a nome falso di chi ti ha venduto la moto. Mi spiego meglio, compro una moto all'estero, una moto storica, ce l'ha uno che ha un nome diverso da quello che è sul libretto. Alla fine io mi trovo un libretto con un nome di Adam, inglese, e che me l'ha venduto a contratto, fra privati, me l'ha venduto Stark. Mi presento agli uffici e mi dicono, no, lei mi deve dare il contratto che è sul libretto. Va bene, Claudio, lei ci sta ponendo un problema di difficoltà relativa alla regolarizzazione sul mercato italiano di veicoli storici acquisiti all'estero. Ammetto che non è il focus della cosa di cui ci stiamo occupando oggi, cioè del tema dei due registri separati. Poi se Alessandro Cherubini vuole intervenire a dare una risposta anche su questo, io mi levo il cappello, però. Sì, no, diciamo che questo è proprio un tecnicismo, però credo che se io acquisto un veicolo all'estero, automaticamente, siccome in Italia sono veicoli registrati, io debba avere appunto un titolo di proprietà. Pertanto il problema qual è? Può essere una fattura o può essere magari un atto che può essere fatto, capisco che magari è estremamente burocratico, però può essere fatto magari al consolato. Questo magari occorre per l'iscrizione in Italia al pubblico registro automobilistico e conseguentemente a perfezionare poi la pratica di nazionalizzazione. Purtroppo bisogna vedere alcune casistiche. In merito però al primo quesito, cioè il fatto che per effetto che i veicoli sono vecchi, pertanto non ci sono nei registri di PRA in motorizzazione, questo ha ragione l'ascoltatore, perché alcune volte per i veicoli, soprattutto italiani, veramente vecchi, non sono passati negli archivi nazionali dei veicoli e pertanto ci può stare questa doppia fila, questa cosa. Ma credo siano delle cose molto residuali, anche perché, se non ricordo male, le amministrazioni stanno rimediando a questa debacle. Allora, noi chiudiamo questa piccola parentesi. Sì, come altri ascoltatori ci dicono, è anche una questione di potere. Sì, c'è anche il fatto che l'ACI regge in piedi con la quota che paghiamo l'anno alla Formula 1 per il Gran Premio di Monza. Sì, c'è dietro anche la politica di sostegno alle attività anche di informazione giornalistiche che l'ACI. Ci sono tantissime questioni dietro, però il problema è che l'antitrust, per quello che mi riguarda, la dice chiara e tutta. diretta per i problemi ai consumatori, al cliente, a chi ha bisogno di pratiche e documenti in regola per gli autoveicoli che non abbiano oneri derivanti dal doppio registro e che siano semplificate invece che complicate. Questo è il mio banale punto di vista. Poi gli interessi, i poteri, eccetera, eccetera, sono un pezzo del problema, ma io oggi penso agli automobilisti. Grazie comunque al nostro ospite e all'UNASCA Alessandro Cherubini. Torniamo tra un minuto con Udo Gumpel. Della belva. Allora, qui ci sono i compari dei Conti della Belva, oltre a Oscar Giannino, collegati Carlo Alberto. Ci sono. E Mario, scusatemi, eccoci, ho alzato oggi. Però Oscar, fammi dire una roba un po' tecnologica, scusami. Non è che possiamo nel 2017 discutere di dematerializzazione di un documento. A Singapore sono anni che hanno sistemi di road pricing digitale, con 80 euro mettono un ricevitore sulla macchina e altro che i registri del PRA, capisci? Tracciano le automobili intanto che si muovono e uno paga non a fronte del nulla, ma paga a fronte dell'utilizzo reale dell'infrastruttura del paese. E noi dibattiamo sulla unificazione del documento, non andiamo da nessuna parte. Capito? Esatto, sì, no, ma ti assicuro che l'esempio mi sembra calzante, per così dire, però, non è che dibattiamo. Da anni ci viene fatto un annuncio che poi la mattina che il decreto deve andare in Consiglio dei Ministri, regolarmente, puff, la sera sparisce. Cioè sono proprio... In questo vuol dire una storia siciliana, cioè siciliana nel senso pirandelliana, non sto insultando siciliana, pirandelliana. Comunque, detto tutto questo, noi abbiamo collegato il nostro rituale ospite, ancora di, ovviamente, concentrato di provocazione ai nostri ascoltatori, in quanto tedesco, in quanto primo, poi secondo, un giornalista che proviene da studi di fisica, di numeri e così via, altra seconda provocazione gravissima alla nostra categoria italiana. Udo Gumpel, come stai, Udo? Sto benissimo, mi sono divertito stamattina ascoltandoti in macchina quasi tutta la mattina e anche Carlo Alberto, che poi mi diverte tantissimo, perché lui è uno che di statistica capisce, a differenza del pescarese che fa, pubblica delle statistiche, per esempio quelle famose sull'andamento della produttività italiana piatta da quando c'è l'euro. Invece sappiamo che è in realtà cresciuta meno della Germania, ma grazie a lui voglio ringraziarlo per la precisione dei numeri, perché e questo è sempre stato uno dei critici di noi, scienziati delle scienze corrette esatte, che molti economisti non ci sanno fare nulla, oppure non so se non ci sanno o ci fanno. Allora, io ti volevo aggiungere un'altra nota che fa probabilmente svenire il nostro pubblico rispetto al costo del passaggio di proprietà. Sì. Allora, in Germania questo costo, sì, infatti io sono pessimo perché l'ho fatto appena poco tempo fa in Germania, perciò so benissimo quanto costa, mi sono anche informato se costa uguale in tutte le regioni, sì, c'è un prezzo unico, unificato in Germania, e ho fatto ieri un passaggio di proprietà in Italia, perciò ho avuto proprio questo bel confronto. Dacci la spadata da parte a parte. 18,60 euro passaggio di proprietà. In Germania? Sì, 18,60 euro. Siete ancora vivi, vi hanno portato No, beh, ma capisci che se la differenza è tra 18,60 euro e l'ordine di grandezza italiano è 300 euro... Anche di più, sì, ecco, anche poi Udo, di anche quanto tempo ci vuole e come si fa a farlo, no? Per capire, non so se hai presente. Guarda, adesso lo dico, Carlo Alberto, molto semplice, perché lo fanno i comuni hanno in tutte le città, come per esempio Amburgo, dove l'ho fatto io, una decina di uffici dislocati in tutta la città, tipo le agenzie, dove tu prendi il numeretto, ci metti, penso, una ventina di minuti, no, grosso modo metti 20 minuti e finisce là tutta la pratica, e esci col nuovo certificato e fine, e non devi mai più tornare, non ti chiamano, non ti sollecitano. E poi volevo dirti un'altra cosa, che infatti io ho rottamato poco fa in Italia una macchina a Roma e avevo appena pagato il bollo e mi hanno detto a Roma che no, nel Lazio non ti restituisce il bollo, anche se teoricamente mi dovrebbero restituire 11 mesi di bollo, perché la macchina non circola più. Io capivo che era una tassa sulla proprietà, però io adesso pago una tassa sulla proprietà di un acciaio fuso che è diventato un'altra macchina. Io farò causa qui al bravo Zingarelli e alla sua regione. Garetti, non Zingarelli. Zingarelli o chi cazzo. No, Zingarelli. Io faccio causa a quello. Faccio causa, perché veramente mi ha rotto. Allora, va bene, no? Comunque 18 euro contro l'ordine di grandezza in Italia e moltiplicate per 10, no, moltiplicate per 20 l'ordine di grandezza. Questo vi dà l'idea, sì, di che cosa ci costa, sì, tenere in piedi le separate cose. Ma oggi la domanda era, com'è, sì, che la Germania è l'unico paese europeo che in vista della campagna per il referendum turco dice noi non vogliamo politici turchi qui che vengano a fare il referendum? Oscar, ti devo correggere, sei sempre ben informato, ma in questo caso no. C'è stata una decisione di ieri che i Paesi Bassi hanno vietato. Ah, ieri questa me l'ero persa, in effetti, sì, è vero. Aia. Aia, hai parlato male dell'Italia, sta saltando il collegamento, sì, telefonico. Quindi. Comunque, ci sono, pronto, aggiunti i Paesi Bassi, questo l'ho capito bene. Ieri sono aggiunti i Paesi Bassi? No. È andato il collegamento telefonico, è andato, ma oggi siamo veramente in condizioni. Torniamo tra un minuto, vediamo se riacchiappiamo Udo Gumpel. Faircam Transport, puntuale ed efficiente nel rispetto dell'ambiente. Scopri di più su faircam.com. vi presenta Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamoci a corte l'imposta è più forte. Conti della Belva. Ah, allora siamo tornati, mi dicono che abbiamo riacchiappato un buon collegamento telefonico con Udo Gumpel ed erano rimasti al punto. Scusate, ecco, eravamo rimasti. No, è che tu non ti devi scusare, il collegamento tecnico non dipende da te. Ma allora sono aggiunti ieri i Paesi Bassi, ho capito bene prima che cadesse la linea? Sì, allora in Germania non c'è stato adesso un divieto esplicito, ma in pratica sì, perché tutti i comuni anche le province dove questi ministri della giustizia, pensate, che hanno incarcerato un giornalista tedesco, anche col purtroppo doppio passaporto turco, perché lui aveva scritto qualche cosa di giornalisticamente assolutamente normale sul fatto del Putsch, sul Gülen, su questi movimenti, e sai che adesso è stato incarcerato preventivamente per le indagini per i prossimi 5 anni. Per 5 anni in Turchia tu puoi tenere uno in attesa di un risultato prima di cioè habeas corpus, dire. Però è una dittatura. Il dibattito che c'è in Germania, che la Germania è stata troppo morbida con la Turchia. Ma sai, tutta l'Europa si è girata dall'altra parte. Oramai settimana provvedimenti senza più gravi, ha messo sotto il fondo sovrano che controlla direttamente tutti i più grandi gruppi turchi. La cosa più buffa è, Oscar, che la Turchia sta precipitando economicamente. Ecco. No? Perché naturalmente imprenditori sani di mente non investono in un paese, in una dittatura, chiaramente. No? Mm. E tutto il boom economico turco era delle costruzioni e del basso costo della lira turca, no? Aspetta, pure lì c'è la lira, no? La svalutazione, pensiamo, no? E allora, invece adesso, sottovoce, sono arrivati dei emissari del governo turco, e così magari li possiamo prendere per gli attributi, che vogliono a Berlino un aiuto economico. Ma la domanda che ti faccio è perché siccome esiste un vincolo, un legame storico, non solo prima i lavoratori turchi in Germania, Gastarbeiter, eccetera, eccetera, ma anche poi di presenza di imprese tedesche in Turchia, che sono della crescita di questi ultimi 20 anni in Turchia. Solo che non ci si investe più in Turchia, mentre c'è una fuga di capitali micidiale da parte Però tu ci confermi la posizione del governo tedesco? Anche dovessero venire i socialdemocratici, resta questa: viva la fermezza, perché è l'unico grande paese europeo che ha detto a Erdogan no. Resta questa? Guarda, la Germania adesso ha preso, non ancora a livello governativo di Berlino, una posizione, però tutte le regioni, soprattutto Nordrhein-Westfalen, governato dai socialdemocratici, ha detto di no alle manifestazioni di questi ministri che sopprimono la libertà in Turchia. E questo è già un messaggio molto, molto importante, no? Naturalmente abbiamo un problema. Abbiamo, come hai detto tu, milioni di tedeschi che hanno radici turche e ancora alcuni milione e mezzo di turchi col passaporto solo turco in Germania. E Erdogan tra questi gode anche di una grande stima, perché vedono in loro il salvatore della turchicità, della nazionalità turca. Si vedono, e anche questo non hanno del tutto torto, per molti anni in Germania e ancora oggi in parte considerati cittadini di classe B. Su questo c'è effettivamente molto da fare in Germania, no? E questo è vero. E Erdogan gioca questa carta. Io sono il vostro rappresentante, io sono il vostro salvatore, però queste persone inneggiano ad un dittatore. Esatto. E noi non, e questo è l'atteggiamento della politica tedesca, non ci facciamo mettere in casa propaganda di un dittatore che non solo sopprime i suoi stessi medesimi cittadini, che poteva anche uno dire tanto non sono tedeschi. No, ma carcere, giornalisti anche. Esatto, non è vero questo, allora, infatti non è giusto. Io ringrazio Udo Gompa per la chiarezza con cui ci riporta una posizione. L'Europa l'ha cancellata, fa finta di non vedere quello che sta succedendo dall'anno scorso in Turchia. Viva la fermezza tedesca, io spero che accomuni tutta la politica tedesca nei confronti di questo governo turco. Quindi grazie Udo Gompa, ci sentiamo la prossima settimana. Renato Cifarelli, ci hai raggiunto anche tu oggi con dei collegamenti telefonici veramente medievali. Renato, ti accogliamo, come vedi, come se fossimo in spiaggia negli anni 60. Come stai, Renato? Mi ha perseguitato per anni questa canzone. Ma lo so, poi, caro mio. Perché io sono giovine. Sei giovinetto. Sono giovinetto, quindi questa era una canzone della mia giovinetta. No, non è vero, era in fasce quando c'era, dai, questa era Mina che cantava Renato. Senti, questa settimana hai visto significativamente risolvere il carico di gravami amministrativi e fiscali che come imprenditore gravano su di te, è vero? Certo, come al solito. No, quest'anno, questa settimana la cosa divertente era che hanno cambiato le dichiarazioni di intento. Le dichiarazioni di intento sono quelle cose che le aziende come la mia servono per acquistare Sensiva. Siccome noi esportiamo moltissimo, uh-huh, e quindi non incassiamo l'IVA, uh-huh, se comprassimo con l'IVA saremmo sempre perennemente a credito. IVA, no? Certo. E quindi facciamo delle dichiarazioni ai nostri fornitori dove gli diciamo: guarda, io esporto moltissimo e quindi non mettermi l'IVA nella fattura. Ed hanno agevolato tantissimo questa settimana. No, allora... L'agevolazione è una cosa giusta, visti i tempi di rimborso. Se fossimo all'estero dove l'IVA te la rimborsano in 15 giorni non sarebbe un problema. Certo. In Italia dove l'IVA te la rimborsano forse dopo qualche anno, se fai il bravo e dopo aver dilato le fideiussioni, la questione cambia un po'. Comunque, questa settimana hanno cambiato, come al solito, qualche regoletta su come si fanno le dichiarazioni di intento e si sono dimenticati di caricare sul sito dell'Agenzia delle Entrate quello che è il programma per controllare quando tu mandi le dichiarazioni di intento all'Agenzia delle Entrate. Ma era una cosa, cioè, hanno tolto la data e hanno lasciato il controllo della data. Vabbè, ma che sono quelle cose, ma sono quelle cose divertenti. Ma quello che conta ormai era l'annuncio del provvedimento, dai, su. Ma, sì, siete incorreggibili voi proprio. No, a me purtroppo ogni tanto chiamerei il professor, quello lì danese, come si chiama, Carlo Alberto, quello che ha più cognomi, sì, che io macchine prodotte in un anno, e lo porterei qua in azienda, perché la digitalizzazione è una cosa bellissima, perché noi... No, Renato, non fare così, perché Carlo Alberto è uno dei pochi professori, non professori, perché ci vive nelle aziende. È vero, no, che dai, lui vive in un futuro che col presente italiano è, insomma, molto lui, spostato in avanti. Lui vive... Il problema è che... Cioè, il problema. Il discorso è che lui vive nelle aziende, ma fa il consulente dei top manager, no? Poi ci sono invece le aziende che vanno gestite. Accusa feroce di Renato, no, a Carlo Alberto. No, no, Carlo Alberto, no, no, no, Carlo Alberto, sei chiamato a difenderti. Scusami. No, no, no, Renato, Renato ha lanciato l'accusa. Carlo Alberto, prego. Siete indietro come la coda dell'animale. Io mi sento di te. No, bisogna giudicare un giudice terzo. Mario, devi intervenire, no, no, tu. No, figuriamo. Ma no. Ma no, ma non è quello. No, no, il discorso è, no, il discorso è che allora la digitalizzazione, cosa sulla quale io credo moltissimo come Carlo Alberto, va benissimo. Il problema è che ci vuole probabilmente un migliore, un salto di qualità su quello che è il software prodotto dalla pubblica amministrazione e su come la pubblica amministrazione gestisce queste cose. Su questo sono d'accordo, però il problema è che sono anche problemi strutturali, cioè la cosa di cui ci siamo occupati prima, insomma, il Ministero ACI è un problema di poteri, non ci mi vengano a dire che è un problema di software, e se si paga 18 euro in Germania e 360 in Italia, ecco l'effetto, questo è il problema. Beh, mamma mia. C'è anche da dire che poi sappiamo tutti che l'ACI ha una serie di agenzie sul territorio. Sì, sì, sì, per carità. Provinciali. Non mi sfugge nulla, non mi sfugge nulla, appunto, ci consente il Gran Premio a Monza, però. Però la mia preghiera, visto che c'è adesso un responsabile digitale a livello nazionale che di digitale ne sa e di cose complesse che vanno tutto il giorno, cioè Piacentini se ne conosce, esatto. Mi piacerebbe che ci mettessero un po' le mani e cominciassero a guardare quella che è la qualità. Ma la colpa è di Carlo Alberto, prodotto. Secondo me. Carlo Alberto, perché Carlo Alberto con Piacentini fa le conferenze, ma non si occupa poi di scaricare a terra la forza delle idee. È vero, Carlo Alberto? Beh, anche difficile. Siamo utoliti. Sono andato stasera proprio con l'amico Antonio Samaritani, che sta facendo un buon lavoro a livello dei componenti base, cioè il speed, il pagamento, il sistema di sicurezza. Qualcosa cresce dal basso. Non c'è ancora niente da annunciare, questo se vuoi è un bene. E fammi sposare la teoria di Calenda, smettiamo di usare la politica degli annunci e vediamo di fornire l'infrastruttura. Fare digitale vuol dire fare le basi delle nuove istituzioni del futuro, non è un giocattolo per assolutamente. Assolutamente. Mario, ma tu, diciamo, in questo caso da osservatore, ma anche da chi è stato dentro in gruppi bancari e così via, eccetera. E ne ha cambiato anche recentemente lavoro. Vedi dei salti nel tuo arco vitale, ti saresti occupato fino a questo momento, negli ultimi 10 anni, quelli delle grandi accelerazioni, li hai visti in opera, in pezzi del mondo del lavoro attraverso cui sei passato, dei salti da parte di qualcuno mentre altri rimanevano indietro, oppure no, Mario? Ma è difficile a dirsi, cioè se guardo la mia esperienza lavorativa, anche perché sai negli ultimi 15 anni ho cambiato solo 2 o 3 datori di lavoro, esatto, per cui ho visto ben pochi salti tecnologici. Ecco. Questo proprio. Poi quello che dice Carlo Alberto sicuramente sono sempre temi molto affascinanti, ascolto sempre con grande interesse. Dopodiché bisogna vedere come viene innestato, secondo me non in maniera discontinua, ma con progressività, però è un'enorme fatica. Lentissima, per chi deve portare in azienda le innovazioni. Bravo. Chi le subisce anche. Ecco, e chi le subisce. Il problema è di chi ne subisce gli effetti. Quindi Renato, secondo me, ai punti, batte Carlo Alberto. Ma io ringrazio tutti i miei 3 compari, ringrazio voi ascoltatori. Appuntamento lunedì alle 8:20 del mattino con Attente Noi Due, con me Alessandro Milan. Fratelli d'Italia, l'Italia le mesta, dai tempi di Scipio finita è la festa, stringiamo